oggi è passato già un anno da che ti eri stancata di me. Sono felice perché so fare a meno di te. Oggi è festa, grande festa perché, festa perché, festa perché. Io finalmente non amo più te. Se penso a tutte le lacrime che ho già versato per te. Oggi ho inventato un proverbio per me.